U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovate gli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Quanti caffè avete bevuto oggi? 3? Siete nella media nazionale. Per piacere o per restare svegli, la caffeina è un bene di largo consumo. La Commissione europea propone di elencare i benefici della caffeina sulle bevande energetiche e zuccherate. Tutti ormai conosciamo le conseguenze del bere troppo caffè, da quelle sull'umore a quelle sulla salute. Perciò, qual è il problema? Risponde l'eurodeputata olandese Christel Schaldemose, del gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo. Il motivo per cui ci opponiamo all'indicazione salutistica sulla caffeina è che questa indicazione finirà principalmente sulle bevande energetiche. E le statistiche ci dicono che molti ragazzini e addirittura bambini consumano queste bevande. Il problema non è solo la caffeina, ma anche il contenuto di zuccheri. A nostro avviso, questo tipo di bevande non dovrebbero riportare nessuna indicazione salutistica. Quindi, sulle lattine di energy drink potrebbe comparire la scritta, aperte virgolette, migliora prestazioni e resistenza, oppure aiuta la concentrazione, chiuse virgolette. Questo, ovviamente, diventerebbe un incentivo in più all'acquisto e al consumo delle bevande energetiche. Consumo che riguarda soprattutto la fascia dei giovani tra i 10 e i 18 anni, che è quella che ama maggiormente queste bevande, dal momento che il 20% degli adolescenti ha confermato di farne uso. Per l'Europarlamento il problema non è tanto l'indicazione, che andrebbe bene se fosse riportata sulle confezioni di caffè, quanto invece la destinazione dell'indicazione e l'effetto sui consumatori, che sarebbero incentivati all'acquisto. La scritta aumenta la concentrazione è sicuramente seducente. I produttori di queste bevande si sono fatti sentire perché vorrebbero molto questa indicazione sui loro prodotti. Chissà perché. Io credo perché pensano di vendere di più. La Commissione dice che questa indicazione andrà bene su bevande consumate dagli adulti e che le bevande energetiche non sono indicate per i minori dei 18 anni, ma è un dato di fatto che le bevano ragazzini e bambini. Perciò, invece di giocare con la salute dei giovani, a mio avviso dovremmo lasciare le bevande energetiche sul mercato, ma non dovremmo apporre alcuna indicazione salutistica su di loro. Appunto, senza togliere le bevande dal mercato, si potrebbe puntare su un uso responsabile e consapevole, invece di decantarne le lodi, come si fa per i superalcolici, che si bevono uguale, ma almeno senza l'illusione che facciano bene. Buon caffè a tutti! U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.